Bene, buongiorno Chiesa, è un onore per me poter condividere la seconda parte del messaggio che ho predicato quasi un mese fa. Non ho mai ricevuto tanti messaggi di aspettativa come per questa volta, ma è la seconda parte, quando la fai, e grazie per questo, ed è la stessa aspettativa che ho avuto questa settimana per il finale di stagione di Gomorra, e per quanti sono dei fan di Casa di Carta, spero che non l'abbiate vista tutta in un giorno. Se l'avete fatto, non spoilerate nulla, perché noi non l'abbiamo ancora vista. Sì, chi conosce Casa di Carta? Tokyo è morta già nella scorsa stagione, volevo giusto dirlo, vabbè, ma è la scorsa stagione, va bene. La scorsa settimana, in realtà dovevamo fare gli spoiler, perché il pastore Mirko la settimana scorsa mi ha rubato mezzo messaggio, e quindi sono contenta che hai predicato tu la settimana scorsa alla fine. E quanti questa settimana abbiamo vissuto la puzza della fogna, no? E quanti hanno scelto di dire no, acqua pura, io voglio far entrare nella mia mente pensieri che vengono dal sistema idrico e non dal sistema fognario. Com'è andata questa settimana? Pensieri puliti? Quanti hanno vissuto dei buoni pensieri? Oh, pasto, guarda quante mani alzate, eh? Amen, che bello. Voglio continuare il messaggio cominciato il mese scorso. Se non l'hai ascoltato, lo trovi online. Si chiama What's Next? Qual è la prossima cosa? Sto parlando del cambiamento, e questa è la seconda parte dello stesso messaggio. E voglio riprendere da dove abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato un mese fa con il dire che il cambiamento è compimento. Il cambiamento che Dio prevede nella nostra vita è il compimento della sua volontà. E quando Lui porta cambiamento, Lui compie la sua volontà nella nostra vita, che molte volte è diversa da quella che noi abbiamo previsto per noi, che è difficile, ma è un processo. E da qui voglio ricominciare. Il cambiamento è un processo. Prima di arrivare a questo, come la scorsa volta, voglio darci il verso. Io l'ho chiamato questo un verso spa. Chi ama andare nella spa? Io amo andare nella spa. Quando arrivi nei centri benessere, c'è quel calore che ti scioglie tutti i muscoli, no, arrivi e sembra che il tuo elettroencefalogramma diventi piatto, e no, se hai anche un massaggio, io amo andare nei centri di benessere, quando sono mamma non ci sono più tornata e ne ho veramente bisogno. Quindi, siccome ora si avvicina Natale, chi di voi vuole farmi un regalo, questo è già un buon suggerimento. E quindi potete regalarmi un percorso, per me e mio marito, però dovete tenervi anche i nostri figli, quindi fate un pacchetto completo. E quindi questo è un verso spa, è uno di quei versi che abbiamo letto questa settimana. Come sappiamo, stiamo leggendo il libro degli Ebrei, e quando ho letto questo verso, non so per voi, ma 50 chili sono andati via dalla mia schiena. Vogliamo leggerlo insieme? Ed è in Ebrei, al capitolo 1, si apre proprio così il libro degli Ebrei, mette proprio in chiaro così lo scrittore la prospettiva con cui dobbiamo approcciarci a questo libro. E c'è scritto, verso 3, egli è lo splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ascolta ora, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto. Dopo aver fatto la purificazione di tutti i peccati, lui si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Puoi fare un sospiro di sollievo. Oh. Gesù è venuto sulla terra come manifestazione dello splendore, della gloria di Dio, come impronta della sua essenza, e cosa ha fatto? Ci ha purificato da ogni peccato. Ha fatto quello che da secoli prima di lui si faceva, ma con la differenza che l'ha fatto una volta per tutte, e poi si è seduto alla maestà, nella maestà. Che cosa vuol dire questo? Prima di lui, ogni anno un sacerdote doveva fare la purificazione per i peccati di tutto il popolo, e si doveva preparare, doveva prendere animali, doveva fare abluzioni, doveva preparare tutto quanto e doveva entrare per purificare. E indovinate, appena usciva ricominciava tutto il circolo, e vai di nuovo, preparati un altro sacerdote, di nuovo la purificazione, gli animali, gli uccelli, il capro, il sangue, l'adorazione, bla bla bla. Ad un certo punto arriva Gesù, lui è il cambiamento. Questa manifestazione di Cristo Gesù segna la differenza tra l'antico patto e il nuovo patto, e il nuovo patto è proprio dato dal fatto che lui ha purificato ognuno di noi da ogni peccato e si è seduto. Amen. Si è seduto per sempre. Non c'è nessun altro che dopo di lui compirà la stessa cosa che lui ha fatto. Questo è il cambiamento per la nostra vita. Da questo momento in poi, un patto che era fatto di regole e che poteva cadere in religiosità è diventato un patto di grazia che ha creato una relazione. Da regole a relazione. Per questo Gesù è il cambiamento. Gesù non è un insieme di regole. E non sto annullando una disciplina personale della quale anche Paolo parla nel Nuovo Testamento, ma da questo momento in poi tutto si struttura con una visione nuova, la relazione. Io posso non peccare più? Sì. Perché? Perché sono in relazione. Io posso chiedere perdono per i miei peccati? Sì. Perché? Perché sono in relazione. Io posso ricevere perdono per i miei peccati? Sì. Perché? Perché sono in relazione. È da questo momento in poi che il cambiamento più importante della nostra vita può accadere. Amen? Me ne posso andare? Perché è così? Da questo momento in poi, tutto quello che diremo lo dobbiamo guardare nella visione della relazione e non delle regole. Se mi stai ascoltando oggi da casa o se mi ascolterai più in là, sappi che dovunque tu ti trovi, in quale fase tu stia vivendo, in quale fase di cambiamento tu stia vivendo, affrontalo non come un insieme di regole, ma in relazione con l'unico che è salito su quella croce portando i miei e i tuoi peccati ed è morto ed è risorto e si è seduto alla maestà di Dio. Amen. Questo cambiamento genera in noi un processo di cambiamento. Ogni cosa viene modificata, ogni cosa non può rimanere la stessa nella nostra vita. Altrimenti questo cambiamento non diventa vivente nella nostra vita, giusto? Però il cambiamento non è che sempre accade così. Ve ne siete accorti? Magari, quelli sono i miracoli che accadono così. Ma il cambiamento, più che altro, il più delle volte, è proprio un processo. Ed è un processo che, prima di tutto, molto spesso, non è veloce. Siamo più abituati in questo momento a scattare una foto e a vederla sul cellulare. Se non ci piace la cancelliamo, se ci piace la modifichiamo e la possiamo stampare e metterla sul nostro frigorifero. Ma il cambiamento è molto più simile al sistema antico, più vecchio, di sviluppo delle fotografie. Vi ricordate com'era per tutti i millennials? Voi non lo sapete perché non sapete neanche cosa sono le cassette, ma ve lo spiegherò ora. Vi erudirò con queste grandi conoscenze. Quando noi eravamo giovani, quando noi eravamo piccoli, c'era la macchina fotografica. Millennial, sapete cos'è una macchina fotografica? No, perché sapete cos'è una macchina digitale. La macchina fotografica aveva un tutti vecchi siete, eh? Un rullino che dovevi girare. Vi ricordate la Kodak? E mai sì a sprecare una di quelle foto, cioè ci dovevi pensare a 20 perché costava un sacco di soldi. Quanto costava sviluppare un rullino? Una 30.000 lire. Non sapete cosa sono le lire? Vattene, perché non sei degno di questo messaggio. Sto scherzando. Amen. Amen. Ma a parte lo scattare quella foto sul rullino, lo sviluppo di quella foto significava mettere il rullino in una camera che doveva essere completamente oscura. Se c'era un piccolo raggio di luce, bruciavi tutto quanto. E poi dovevi stampare, poi dovevi mettere nell'acido, poi dovevi far asciugare. Ci impiegavi giorni. Praticamente tu consegnavi il rullino del tuo compleanno e ricevevi le foto all'altro tuo compleanno. Così era prima. Quindi era un processo lento, con una qualità molto più bella, molto più alta, ma era un processo lento. Il cambiamento è molto più simile a questo tipo di processo che a una fotografia digitale. Perché? Perché necessita tempo. Molto spesso il cambiamento nasce con una piccola idea, con un desiderio, con un sogno, con una promessa che Dio forse mette nel tuo cuore, nella tua mente, ma è piccola, talmente piccola che a volte gli occhi naturali non la possono vedere. E poi su questo c'è il prossimo passo, poi c'è quell'altro ancora, poi c'è quell'altro ancora, e dopo che hai fatto numerosi passi ti guardi indietro e dici: wow, questo è il cambiamento. Voglio darti un verso di riferimento per questo. Genesi 12, conosciamo tutti la storia di Abramo, tra un po' la leggeremo in Ebrei. In Ebrei 11 troviamo Abramo come padre della fede e c'è scritto di lui che lui è diventato il padre delle nazioni. Ma in Genesi 12, da dove comincia il cambiamento di Abramo, lo troviamo come un uomo fedele, anziano, a 75 anni, senza figli, che deve affrontare un trasloco, anzi deve affrontare un cambio di città. Leggiamolo insieme. Genesi 12, verso 1-4. Or l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Ascolta qua, qualcosina Dio ha cominciato a dirgliela. Ma non tutto, tutto. Non gli ha detto che sua moglie partorirà quando ha 90 anni. No, no, ha cominciato a mettere un piccolo seme. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te, ascolta, qui comincia già l'idea ad essere un po' più formata. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Il verso 4 ci interessa particolarmente, perché da un'idea piccola Abramo ha detto sì. Dio non gli ha mostrato tutto il piano. Qui aveva 75 anni e la promessa si è compiuta, ha cominciato a compiersi a 99 anni. Ma Dio non gli ha detto: nei prossimi 22 anni tu aspetterai, poi ti mostrerò ancora cose migliori, poi parlerò a tua moglie, poi tua moglie ti darà una serva, poi ti nascerà un figlio che non sarà legittimo, e poi ti nascerà uno legittimo, e poi tu andrai sul monte, poi ti chiederò di sacrificarlo, poi però ci sarà un montone, poi però... No, le ha detto: vai e spostati, perché qualcosa sta per accadere. E Abramo cosa ha fatto? Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto. Questo è l'inizio del cambiamento. Dire sì a quello che Dio ti chiede. Quando tu dici sì anche alla parte più piccola, che non capisci, che non ha un quadro completo, che non dove devi metterci solo fede, e non fede nel piano, fede in colui che ti dà il piano, quando tu dici di sì, allora il processo comincia e comincia quel cambiamento per arrivare dove Dio vuole portarci. Ma tutto inizia con una cosa piccola, lenta, progressiva, costante, radicale, piccola, piccola, piccola, piccola, invisibile. Ti piace questo? No. Perché tutti vorremmo già il maxi regalo con la scatola, wow, questo è il cambiamento. E invece comincia con: spostati da questo posto. Che bello, questo è il nostro Dio. Ma sapete perché Dio fa in questa maniera? Perché Lui ci ha creati in modo perfetto, no? Noi crediamo che tutto di noi è stato creato dal nostro Creatore. E Lui ha creato anche una delle parti più importanti della nostra vita, che è il nostro sistema nervoso. Come sapete, sono una psicologa, cerco di studiare la nostra mente. E Dio ci ha creati in una certa maniera. Sapete perché Dio non ha la possibilità a volte di spiegarci, no, cioè non si permette di spiegarci le cose grandi che Lui vuole fare? Perché noi non riusciamo a riceverle. La nostra mente fa molta difficoltà con le cose grandi, con i grandi cambiamenti. Vi voglio spiegare un principio di come funziona la nostra mente. Per la mente di noi esseri umani, il cambiamento è molto costoso. Perché? Perché il nostro sistema nervoso funziona a risparmio energetico. L'avete mai sentito dire? Cioè, quando c'è una sfida nuova, il tuo sistema nervoso cosa fa? Paura! Quindi vado a richiamare nella mia mente tutto quello che è possibile trovare perché io possa agire nella maniera in cui la nuova sfida mi dà occasione di fare. Questa strategia mentale si chiama euristica della disponibilità. Non so come fare, vado a pensare come ho fatto nelle scorse volte, velocissima, la nostra mente non la trova e va in panico. Quindi quando noi non troviamo il file giusto, la nostra mente va in panico, diventa molto costoso il cambiamento, ma è in quel momento che si avvia anche, perché siamo stati creati perfettamente, una parolina magica che si chiama resilienza, e cioè la possibilità per la nostra mente di assecondare le nuove sfide. Cioè tu prima di tutto vai a vedere se li hai già fatto, se non lo trovi vai in panico, e la nostra mente si prepara per le cose nuove, perché la nostra mente è una mente plastica, è una mente flessibile, ma all'inizio il piano, se è troppo grande, è troppo costoso per noi esseri umani assumerlo, per quello Dio fa le cose con calma. È anche vero che nella nostra mente, nelle nostre emozioni, funzioniamo in una maniera particolare. Vi voglio far vedere il ciclo del cambiamento nella nostra mente, come in genere funzioniamo quando il cambiamento è volontario, cioè quando tu vuoi cambiare qualcosa. Ci sono 5 fasi, chiedo alla regia di mettere la slide. Il nostro umore in tutto questo cambiamento è super vario, cioè abbiamo gli alti e bassi, non perché sei in menopausa, no, è perché la nostra mente funziona in una determinata maniera. Ci sono 5 fasi, hanno studiato alcuni psicologi, del cambiamento volontario. La prima fase è l'ottimismo ingiustificato. Questo cambiamento, vi voglio fare un esempio pratico. Voglio perdere 10 kg, mi iscrivo in palestra e inizio la dieta. Ok? È un cambiamento. Da gennaio tanto tutti lo vivremo questo cambiamento, perché ci prepareremo alla prova costume, non lo so, i matrimoni e tutto quello che c'è in estate. Quindi ci iscriviamo, no, ora non ti iscrivere perché perdi anche, diciamo, la quota assicurativa dell'anno, tanto vale ormai, fatto 30, 31, fallo a gennaio. Quindi a gennaio, il 7 no, perché dopo l'Epifania, l'8 gennaio... ci iscriveremo tutti in palestra. E guarda un po', l'ottimismo ingiustificato ti porta a andare a Decathlon, comprare scarpe da ginnastica, pantaloni nuovi, maglietti, perché altrimenti giustamente non dimagrirai se non hai i giusti vestiti. Quindi avrai tutto quanto pronto, vai in palestra, suderai 10 minuti sul tapis roulant, manco se stai per avere un infarto, torni a casa, metti i pantaloni e magari li hai tenuti larghi e dici, ma come sono dimagrita, eh? E quello è l'ottimismo ingiustificato. Io già ne faccio che vado a mio marito. Hai visto come sono dimagrito? Mio marito positivo, dice, sì, sacco, sei dimagrito. Poi ti pesi, hai perso 3 kg. No, vi capita? Mo, 3 kg. E poi incontri Luigi, che studia queste cose, e c'ha i muscoli, e dice, 3 kg sono solamente liquidi. Cioè, praticamente non hai perso un etto. Però sei ottimista, sì, domani vengo di nuovo, anzi no, faccio il full 3 volte a settimana, gestisco l'agenda, cancello l'università perché è in estate, boom. E poi vai la seconda volta, anzi no, il giorno dopo, l'acido lattico, quel mostro che Dio ha creato, perché i muscoli ce li hai fermi da prima della pandemia e quindi non lo sanno più che sono dei muscoli nel tuo corpo, l'acido lattico ti porta a stare male. Proprio scene da panico, quando mio marito prende in braccio i bambini, voi non avete idea di quello che succede. L'acido lattico, quel mostro. Mio marito gli ha detto, posso dirlo amore, cosa ti ha detto David? David ha detto a mio marito, papà, ma tu da giovane avevi muscoli? Sanno essere spietati i bambini, eh? E quindi ti ricordi che esistono i muscoli? E che fai il giorno dopo? Vai in palestra? No. Perché non ce la fai. Dopo 3 giorni ti fanno ancora male i muscoli e vai in palestra? Beh, no. E dopo una settimana mio marito mi dice, ma non avevi pagato il mese? Eh sì. E allora lì arriva il pessimismo giustificato. Faccio schifo, non ce la posso fare, facciamo così, non ci vado ai matrimoni per cui mi sono messa a dieta, al mare non ci andrò, andrò tra 5 anni e io non valgo niente. Ci sentiamo falliti nella fase del pessimismo giustificato, perché è troppo difficile, perché quando cominci a dare via le abitudini è allora lì che è costoso, è molto costoso, e questo pessimismo ci porta a vedere tutto nero. Noi neri, gli altri neri, le nostre decisioni, a volte anche Dio nero. Ora sto facendo un esempio leggero come quello della palestra, ma immaginiamo il cambiamento che Dio ci dà. Non so, ora stiamo per avviare la fase dei gruppi, tra un po' cominceremo. Saremo tutti felici di cominciare, ma a gennaio qualcosa forse non comincerà ad andare nei gruppi. Allora lì dobbiamo ricordarci che c'è un pessimismo giustificato che è solo una delle fasi. Ma quella che viene dopo è ancora peggio. Perché nella terza fase dobbiamo decidere che cosa fare. Chiameremo i nostri supervisori a dire non voglio fare più il capogruppo, oppure coglieremo la sfida e diremo oh, io vado avanti. Se le persone sono difficili, io vado avanti di più, allora devo inginocchiarmi, devo pregare. O forse c'è un cambiamento lavorativo, forse c'è la palestra, o forse c'è una sfida su un esame all'università. E qui questo è il punto di svolta. O abbandoni tutto, o abbandoni tutto. E in questa fase, pensiamo ai personaggi della Bibbia, un sacco di gente ha lasciato stare. Vi ricordate Saul? Quando è che si è allontanato dalla sua chiamata? Quando è cominciato ad essere un po' più difficile, non quando arrivava tra i profeti lo invitavano a profetizzare, profetizziamo tutti insieme, oh, vado dalle persone, tutto riconosciuto, eh? No, ma quando le cose si facevano serie, quando c'era una guerra e Samuele gli ha detto aspetta prima di adorare, lì Saul ha lasciato tutto quanto. Perché? E lì il Signore ha scelto qualcun altro al posto di Saul, ma questo lo vediamo sempre, anche per i discepoli, fino a quando sono stati scelti, straordinario, ma alla croce. E lì c'era un in o out, un dentro o fuori, e questo è un punto di svolta che se sappiamo cogliere per quanto è difficile, allora il processo va avanti e ne usciamo vincitori, ma se ci areniamo, la storia ci metterà un'etichetta sulla nostra vita che è fallito. Che è fallimento, perché quando non arrivi al cambiamento sì che ti senti fallito, ma anche quando non ci provi ti senti fallito, più fallito ancora. Se in questa fase raccogli tutte le tue forze, fai appello alla fede, sei sicuro e certo della chiamata che Dio ha per te, nonostante è difficile, e in questa fase molti operai lasciano, no Gianlu? Frontiers e tutto il resto ce lo racconta. Così voglio parlare a tutte le persone che sono in questa fase, che sei o dentro o fuori. Raccogli forza dalla chiamata che Dio ha dato sulla tua vita. Se devi riprendere i libri che hai scritto, dove hai scritto la chiamata che Dio ha sulla tua vita, vagli a riprendere. Se devi chiamare qualcuno a dire, ma ti ricordi quello che il Signore mi ha detto? Perché ora non lo vedo proprio. Chiama qualcuno perché ti possa dare una motivazione per questa fase complicata. Per piacere, non ti arrendere in questo momento. Ci sono in te grandi risorse che Dio ha già messo dentro di te, ma soprattutto la nostra risorsa principale è la fede in colui che ha detto quelle promesse e che sarà fedele anche nel compiere quelle promesse. Amen? Ti piace? Oh, vi vedo convinti. Amen. E quindi poi arriva finalmente la quarta fase. E non hai perso 10 kg, però ne hai persi 6. E allora vai avanti, perché qui c'è l'ottimismo giustificato. E ho perso solo 3 kg di liquidi e incontrerai sempre un Luigi che ti dirà che sono solamente liquidi. ma è facile. Noi abbiamo vissuto questa fase con la genitorialità. E quindi ad un certo punto, tutte queste fasi con la genitorialità, e vi dirò di più, continuiamo a viverle giornalmente perché siamo un po' bipolari, io e mio marito. Quindi questa genitorialità è cominciata con l'entusiasmo, yeah, fantastico, poi abbiamo incontrato la prima persona, ma vedrete che sarà difficile. Noi, non sarà difficile! Mi ricordo un colloquio con una psicologa, disse, saranno 2 anni tremendi, noi nel nome di Gesù rigettiamo questa parola perché noi ci guardiamo, amore, ma stiamo andando alla grande, dopo 2 settimane il ricovero di Abram, isolati, pandemia, lasciatemi stare, cosa ho fatto, perché? Perché proprio a me questa fase, poi ce la fai e dici, beh dai, mettiamoci in carreggiata e poi dici, ma ce l'ho fatta, sono arrivata al punto, perché arriva la quinta fase e arriva il cambiamento. Mentre sei dentro, mentre sei nel processo, è troppo complicato, ma dopo arriva tutto il resto della storia di Abramo. Poi arriva anche Ebrei 11 in cui si racconta che Abramo è il padre delle nazioni. Amen. Nella quinta fase c'è la soddisfazione, ce l'hai fatta, c'è il successo, c'è l'adorazione di sapere che Dio ha compiuto quelle cose. La Bibbia ci insegna ad adorare Dio mentre siamo anche in prigione, Quindi anche quando siamo nella seconda, nella terza fase, l'adorazione ci transita, l'adorazione ci aiuta a, come un ascensore ad andare verso queste cose. Il cambiamento quindi è sempre costoso. Ancora di più, cioè già così è costoso se è interno, se è la tua motivazione, se te l'ha promesso Dio, se l'hai voluto, perché ricordo questo è il ciclo del cambiamento volontario. Ma cosa succede quando il cambiamento è involontario? Perché accade che siamo catapultati in stagioni, in situazioni, penso a tutto quello che noi non riusciamo a pianificare. Quello non è un cambiamento voluto. Faccio un esempio, una malattia. Faccio un esempio, la nascita di un bambino, l'hai pianificato, sì, ma quando arriva, poi non dorme la notte, poi non hai più una vita. O facciamo ancora un esempio, una guerra. Non voglio paragonare i bambini a una malattia, a una guerra, sto parlando più o meno, no? Capito la mia maternità com'è tragica. Ma che schifo. No? Spero che il tribunale non sia all'ascolto di questo messaggio. Ovviamente ci toglieranno i bambini in poco tempo, domani, che ci abbiamo pure gli appuntamenti. Vabbè, assistente sociale, psicologa, giudice, siamo felicissimi, i nostri figli stanno bene, abbiamo sofferto grandi momenti psichiatrici in questo... Scherzo, non scherzo. Quando il cambiamento poi non è voluto, una malattia, un cambio di un lavoro, una perdita di un lavoro, pensiamo alle guerre. Ancora un'immagine, no, del popolo afghano che in un giorno stava a casa propria, un giorno dopo stava in un'altra nazione con una busta in mano. Questi non sono cambiamenti voluti, desiderati, pianificati, volontari, sono eventi che ti cadono addosso, di cui non puoi gestire nulla. E qui ovviamente la nostra mente va in profonda sofferenza. È qui che abbiamo burnout, è qui che abbiamo sindrome post-traumatica da stress, è qui che abbiamo lo stress completo. È complicato quando il cambiamento non è volontario, quando non parte da te, quando non hai una motivazione interiore, quando non è Dio che te lo ha detto, ma è qualcosa che ti si è catapultato addosso. Voglio leggervi un esempio nella Bibbia, perché la Bibbia ci insegna sempre, dobbiamo solo guardare meglio a volte. C'è una persona che ha subito un cambiamento ed è rimasta bloccata. E questa è la moglie di Lot, sappiamo benissimo la storia. Però te la voglio far leggere, bene, da Genesi 19. E dice, no, sappiamo la storia, Dio sta per distruggere Sodoma e Gomorra, Lot era lì, ma Dio manda degli angeli a dire, Lot, prendi tutto quello che ha a che fare con te e lascia questo posto, perché sei un uomo fedele e voglio benedirti. E allora andiamo, Genesi 19, verso 17, dopo averli fatto uscire, ascoltate la terapia di Dio per convincere, per aiutare il cambiamento di queste persone. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, quindi da indicazione, da prospettiva, e non ti fermare in nessun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti morirai. Lot rispose loro, guardiamo la resistenza. No, mio signore, ecco il tuo servo, se il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita, io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Però, dice Lot, non ce la faccio ad andarmene così velocemente, però aspetta, no? La resistenza. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi. Non si voleva allontanare da dove era. Aveva bisogno di rimanere perché era troppo forte questo cambiamento. E quello rispose, è piccola e lascia che io fugga lì. Non è forse piccola? Così io vivrò. E quello rispose, ascolta bene, questo è un angelo che Dio ha mandato. Ecco, anche questa grazia ti concedo. Di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso fare nulla. No, io ti aspetto finché tu non sei giunto. Quella città si chiamava Soar. Ascolta bene. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore e li distrusse quelle città. Tutta la pianura, tutti gli abitanti della terra e tutto quello che cresceva sul suolo. Ascolta ora. Ma la moglie di Lot non ha affrontato questo cambiamento così come le era stato suggerito. La moglie di Lot ha affrontato questo cambiamento con una grande resistenza. E cosa ha fatto? La moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Viviamo blocchi. Puoi rimanere bloccato in un cambiamento che non ti è piaciuto per tanti anni. Forse lo hai subito, forse è stato troppo repentino, troppo velocemente. Il cambiamento che è veloce, che non è volontario, che lo subisci. Sapete che cosa fa nella nostra mente? Ci toglie la possibilità di controllare la nostra vita. Perdi totalmente il controllo. Ed è una cosa buona? Una cosa brutta? Però è una cosa buona. Se questo controllo decidi di darlo in mano al nostro Signore. Non capisci il passo. Puoi farlo solo per fede. Non ne capisci neanche il suono da lontano del cambiamento, ma in queste occasioni, quando il cambiamento è subito, quando è difficile, quando non capisci più nulla, l'unica cosa che possiamo fare è prendere il nostro controllo e dire: tieni, lo do a te, mi arrendo al tuo controllo, alla tua sovranità, alla tua volontà perfetta, non la capisco, non la vedo da lontano, non sono in grado, non mi piace, ma lo do a te. Ma aspetto te, ma dillo tu quello che devo fare. E io lo faccio, anche se non mi piace, anche se non è quello che avrei pianificato. È difficile questo processo, è più difficile, capiamo bene, se quello è difficile ed è volontario, questo è complicatissimo. E Chiesa, quante statue di sale, quante statue di sale. La Chiesa non è fatta per essere un museo e neanche una salina. La Chiesa è fatta per essere un organismo vivente di persone che si muovono l'uno con l'altro, l'uno verso l'altro e tutti insieme verso Cristo. Questa è la Chiesa, non è un museo, non è una salina. Quindi, per piacere, se sei una statua di sale, bloccato, fissato, traumatizzato, cosa facciamo? Vivilo con Dio. È facile a dirsi, Sara? No, no, non è facile a dirsi. Ma vi ricordate il verso dell'inizio? Che Dio ha aperto per noi una strada per una relazione. Solo quando sei in una relazione, allora puoi guardare in faccia il tuo Dio e prendere da Lui la forza per realizzarlo. E solo quando sei in una relazione intima, che comprendi che Dio è il tuo aiuto anche quando non capisci nulla. Che Dio non è solo il tuo Dio quando lo servi o quando va tutto bene o quando ha creato una strada per te e tu la vedi, ma quando sei in una relazione intima, così è in una relazione. Io e mio marito ogni giorno siamo una squadra che si deve svegliare alle 7, si deve andare a dormire alle 10 e deve far andare tutto quanto, ma quando ci guardiamo negli occhi, lì troviamo la forza. Quando non va bene, è il suo ti amo che mi dà forza, è il mio ti amo che gli dà forza, è la nostra preghiera, è la nostra intimità, è la nostra corda, che è la corda che rimane, che ci fa aggrappare quando le cose sono complicate. E questa sicurezza, quando ce l'hai? Quando sei intimo, quando hai una relazione intima. Quando hai una relazione intima con il tuo Dio, e indovina un po', come abbiamo cantato, Dio è con noi sempre. Dio è con noi in ogni stagione. Dio è con noi in ogni cambiamento, che sia stato Lui a deciderlo per te, che ti piaccia o che non ti piaccia, se ti stai catapultando in una stagione che non avevi previsto, Dio è con te. Questa è una realtà che non può distruggere nessuno. Amen. Chiudo con questo esempio. Uno dei personaggi che vediamo più cambiare in tutta la Bibbia è Pietro, il nostro fantastico eroe di orgoglio, no? E lui ha vissuto alcuni cambiamenti volontariamente. Lui ha lasciato le reti e ha seguito Gesù. non ha capito la portata, voleva ogni tanto andare a pescare, ogni tanto stare con Gesù. Gesù gli ha detto: che dobbiamo fare? Ogni tanto se lo porta a casa, Gesù, guariscimi la suocera, bla bla bla, stiamo un po' a casa, un po' in giro, come dobbiamo fare, adesso, sinistra, dove mi devo sedere? Un po' queste storie qui che ci fanno capire che Pietro un po' ha capito, un po' non ha capito niente, vero? Un po', Giacomo e Giovanni erano a destra e a sinistra. Ma lo vediamo ad un certo punto, Gesù nel Getsemani, che cosa... Come troviamo Pietro? Possessore di una spada che ancora vuole manifestare tutto quello che ha dentro. È cambiato Pietro, ma non del tutto. Poi lo troviamo alla croce, nel momento clou del ministero di Gesù. E cosa fa Pietro? Pietro lo tradisce, traumatizzato da questo evento. Perché? Perché a lui non piaceva. Quando Gesù gliel'ha annunciato, e Gesù gliel'ha annunciato più volte, non per ultima alla cena, quando ha lavato i piedi, Pietro ha detto: sia mai che sia tu a lavarmi i piedi. E Gesù gli dice: senti Pietro, se non ti lavo i piedi, tu non avrai parte in tutto questo. E lui dice: Gesù, non mi lavare i piedi, fammi proprio la doccia, perché non ha capito ancora il senso del tutto. E lo vediamo che non ha capito il senso. Quando Gesù muore, Pietro cosa fa? Ce lo ricordiamo? Torna a pescare, di nuovo, fallito come prima, e non pescava niente, cioè pure niente, poverino. Però poi lo troviamo in Giovanni 21, Pietro, è lì che Gesù lo arriva al dunque e le dice: Pietro, ma tu mi ami? Sì, ti amo io. Pietro, ma tu mi ami? Ti amo. Terza volta, distrutto. Pietro, ma tu mi ami? Dopo Giovanni 21 troviamo Atti 2, e poi 3, e tutto il Nuovo Testamento, un grande cambiamento, voluto, difficile. Ma Pietro che cosa ha fatto? In ogni fase, li ha capiti o no, li ha fatti pienamente, è stato intimo con Gesù, intimo con Gesù. Quindi sì, con Lui, in qualsiasi fase. Sii intimo col tuo Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Amen. Dove sei con Gesù? Dov'è la tua intimità con Gesù? Parla con Lui. Parla con Lui. Stai con Lui. Stai con Lui. Ogni giorno stai con Lui, non capisci niente di quello che sta accadendo, stai con Lui. Ma Dio non mi parla, stai con Lui. Ma non lo sento, stai con Lui. Ma c'è la parola di Dio, non la capisco, stai con Lui. Prega, leggi. Oggi non lo capisci, domani non lo senti, dopodomani senti un sussurro, tra 4 giorni senti una voce udibile che grida nella tua vita. Così è il nostro Dio. Ci rende in grado di capire la sua voce passo passo. Lui vuole stare con noi, Lui vuole che tu ed io stiamo con Lui. Questa è la relazione che Lui vuole con noi. Dovunque ti trovi, cerca la tua intimità con Dio, cerca la tua intimità, cerca quel momento che è solamente vostro. Ogni giorno, in ogni parte della settimana, in ogni parte della tua giornata, in ogni parte del tuo cambiamento, cerca quell'intimità. Amen. Forza, alziamo le nostre mani e cantiamo insieme questo pezzo di canzone. Leggi bene queste parole, sono una confessione su questa predicazione. Se vuoi prendere una decisione ora, se hai deciso che vuoi abbracciare questo cambiamento con Dio in Cristo, forza, alza le tue mani, canta con fede questa canzone. Falla essere la tua confessione.